qui, io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Il giorno più brutto della mia vita è stato il 25 aprile del 2014, esattamente verso le 9 di sera. Quella sera, seduta in bagno, un incubo si stava facendo spazio nella mia vita. Sono Berenice, vivo a Briglia, sono una studentessa piena di vita e con uno spirito ribelle che sfrugherà il secondo anno di liceo. E pensare che qualcuno darebbe tutto per vivere un momento simile. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, questa è una storia molto particolare, anzi no, direi che è una storia abbastanza naturale, è una storia che probabilmente accade a molte persone, ma è una storia che racconta come età diverse della vita facciano vivere in maniera diversa gli stessi momenti. E ho cominciato leggendovi questo messaggio di Cesare sul nostro profilo Facebook, che è Voi siete qui Radio 24, che dice: e pensare che qualcuno darebbe tutto per vivere un momento simile. Ecco, questa è proprio la chiave di lettura di questa puntata, perché quando ci è arrivata la storia di Berenice, che tra l'altro siamo riusciti a recuperare al volo perché evidentemente ci ha scritto da un indirizzo email che leggeva poco e l'abbiamo recuperata giusto, non dico pochi minuti prima di andare in onda, ma Miriam è riuscita a sentirla ieri e ce l'abbiamo oggi al telefono, è ospite del programma. Quando abbiamo letto la storia di Berenice, io credo che io e Tiziano abbiamo pensato la stessa cosa, no? Noi siamo nell'età in cui intorno a noi le persone hanno dei figli, cominciano ad averli o li hanno già avuti, e soprattutto siamo anche nell'età in cui moltissime persone vorrebbero avere dei figli, e quella cosa lì non è sempre così facile. Non è così facile quando hai 25 anni e lo è di meno quando hai la nostra età, quando ti avvicini ai 40. Noi però siamo un po' la generazione di quelli che fa figli tardi, per mille motivi, perché siamo precari, perché ci sono pochi soldi, perché è difficile fare progetti per il futuro, perché ci si prende e ci si lascia con molta più facilità. Non c'è un giudizio di valore su questa cosa, è semplicemente un dato di fatto, no? E quindi quando abbiamo letto il racconto di Berenice, da una parte abbiamo pensato probabilmente quello che ha scritto Cesare, ed è pensare che qualcuno darebbe tutto per vivere un momento simile. Però poi abbiamo pensato, beh, però è capitato anche a noi di arrivare magari a 15 anni, no, però a 20, ma anche magari a 22, 23, ma anche a 25, di dire: sono arrivati, anche stavolta l'abbiamo scampata. 349-238-6666, avete capito di cosa stiamo parlando? Oggi, credo per la prima volta, parliamo di ciclo mestruale a Voi siete qui, e non siamo Nicoletta Carbone o Deborah Rosciani, più Nicoletta Carbone che Deborah Rosciani, che di solito è lei che tratta certi argomenti, e anche Gianluca Nicoletti ogni tanto sicuramente ne ha parlato. E lo facciamo attraverso una storia, che è il modo che noi usiamo per parlare degli argomenti. E la storia di Berenice parla esattamente di quel momento lì, di quando sei forse troppo giovane per certe cose e hai fatto delle cose che andavano fatte in un altro modo, e ti trovi a dire: ragazzi, se non arriva, se non succede, la mia vita è rovinata. E tra l'altro è un modo che spesso utilizziamo noi per un filtro per vedere la nostra vita: se non succede questo, se non finisce così, se non prendo quel lavoro, se non mi trasferisco, se non mi fidanzo con lui, la mia vita è rovinata. Poi in realtà la vita è molto più forte di quanto noi immaginiamo, e quindi le cose accadono. Però io vi chiedo di fare uno sforzo oggi, che in realtà non è così difficile da fare, perché la storia di Berenice è chiarissima, l'episodio è limpido, però vi chiedo di fare questo piccolo sforzo. Qualsiasi sia la vostra età, ovunque voi vi troviate, in macchina con i vostri figli magari, oppure al lavoro, oppure nel vostro studio, oppure a casa, ecco, cercate di pensare a chi eravate voi quando avevate 15 anni, perché questa è l'età di Berenice, e cercate anche di ricordare che rapporti avevate con l'altro sesso, maschio o femmina che fosse, e come vivevate l'ipotesi di avere un figlio. Ecco, ora avete fatto mente locale, sentitevi la storia di Berenice. Il giorno più brutto della mia vita è stato il 25 aprile 2014, esattamente verso le 9 di sera. Quella sera, seduta in bagno, un incubo si stava facendo spazio nella mia vita. E tutto perché non era comparsa neanche una goccia di sangue dopo 7 giorni di ritardo del ciclo mestruale. Occorre però partire dal principio, e anche il principio ha una data ben precisa, l'8 novembre del 2013. Giorno anch'esso fatale, perché segna il fidanzamento con quello stronzo del mio ex ragazzo. Per me quella data rappresenta l'inizio di 4 mesi fantastici, ma anche la porta per una settimana d'inferno che ti fa scordare tutto. Da quell'8 novembre trascorsero 3 mesi incredibili, unici, che portarono a un'altra data fenomenale, il 28 febbraio del 2014. Giorno così importante da non doverlo e poterlo mai più scordare. Il giorno della prima volta. Quel giorno in cui si racchiude tutta la vita sessuale. Il giorno su cui ti fai filmini da quando ti sviluppi. Giorno in cui tutto deve essere perfetto, anche se poi la realtà è parecchio diversa. Io e il mio ex, adolescenti incapaci ed impacciati, quel giorno abbiamo fatto il grande passo. Ovviamente è inutile dire quante figuracce ci siano state e che è stato bellissimo anche e soprattutto grazie a quelle figuracce. Ho 15 anni e mezzo, ho fatto più figuracce lui perché era sanamente più impreparato di me. Non so se ho fatto pace con lui perché lui è molto misterioso, non sono fidanzata. Dopo quel giorno, tra me e lui, non c'è stato più un rapporto. Non perché noi non volessimo, ma per un motivo o per l'altro non si trovava mai il tempo. E intanto passò un altro mese. Lui stava morendo di astinenza, ma si era anche accorto che avere rapporti non era una faccenda così semplice. Secondo me è stato per questo che mi ha scaricato, anche se la scusa che lui aveva trovato era che non mi amava più. E così passò un altro mese, quello post-rottura. Quello è stato il mese in cui ho arricchito le aziende di fazzoletti di carta per quanto ho pianto. Un mese in cui ero così a terra che scoppiavo a piangere per niente. Dove cercavo l'aiuto di tutti, ma nessuno mi poteva aiutare. Dovevo rialzarmi da solo. E poi, il 19 aprile 2014. Il calendario segnava su quella data mestruazioni. Ma quel giorno per me non successe niente. E il giorno dopo nemmeno. E quello dopo uguale. E ancora uguale. Insomma, il ciclo non veniva. Al 5° giorno di ritardo fui presa così tanto dalla paura che incominciai a vedermi con un bambino tra le braccia. Ero così terrorizzata che in pochi minuti papà e nonna seppero che non ero più vergine e 2 mie amiche vennero a conoscenza del mio ritardo. Ho detto a mio padre di aver fatto l'amore perché me l'ha chiesto lui e a mia nonna in un attacco di nervosismo, alle mie amiche per confidenza, sempre per nervosismo e per avere consigli. Le mie amiche hanno detto di comprare il test di gravidanza. Ero così preoccupata che per quanto mi informai sulla gravidanza sarei potuta diventare una dottoressa. Al 6° giorno mi ritrovai in mano un test di gravidanza comprato al supermercato. Il risultato fortunatamente era un no, non sei incinta. Ma delle mestruazioni, neanche l'ombra. Al 7° giorno l'incubo si faceva più reale. Alle 9 di sera del 25 aprile mi ritrovai seduta sul water col telefono in mano. Sudavo in preda ad un attacco di terrore puro. Quasi da morirci su quel water. Stavo per dare al mio ex la notizia che sarebbe diventato papà, ma avvenne il miracolo. Alzandomi dal WC, sulla carta igienica, scoprii delle piccole macchie di sangue. In quel momento ho baciato il suolo. Ho ringraziato Dio 1000 e 1000 volte ancora. E quel giorno così spaventoso si trasformò in un giorno unico. Non andare via, non andare via. Io ti offrirò perle di pioggia venute da dove non piove mai. Aprirò la terra giù fino nel fondo per coprirti d'oro, d'oro e di luce. E ti porterò dove non c'è più quello che tu cerchi e quel che tu vuoi. Non andare via, non andare via, non andare parole pazze che tu capirai e ti parlerò di 2 amanti che per 2 volte già hanno visto il fuoco. Ti racconterò la storia di un re morto perché non ti ha visto mai. Non andare via, non andare via, non andare via. Nel vulcano spento che credevi morto, molte volte il fuoco è rinato ancora. Fuoco brucia tutto quanto intorno e non riconosce niente e nessuno. E quando la sera se c'è fuoco in cielo, il rosso ed il nero non hanno confine. su un campo di margherite, è stesa su un campo di margherite, Berenice, nella foto che ci manda, e che è bellissima perché si vede che questa generazione usa Instagram, devo dire, quantomeno i filtri li sa usare benissimo. Lei ha un'aria molto felice, appunto le margherite, i capelli tenuti da una parte, un bel sorriso, ma soprattutto una bella maglietta degli AC/DC. Pronto, ciao Berenice. Pronto. Ciao. Ciao. Come stai? Benissimo. Dove ti trovi, Berenice? Mo a casa a fare diritto, quindi. che cosa studi, Berenice? Dobbiamo chiedere allo Stato, le fonti del diritto. No, scusami, intendo dire che scuola fai? Che cosa faccio di corso del liceo? No, fai il liceo, no, volevo sapere se che fai il liceo. Fai il liceo, liceo classico? Umane. No, scienze umane. Scienze umane, ok. Cioè esiste un liceo che si chiama Scienze Umane? Mm? Esiste un liceo che si chiama Scienze Umane? Sì, è stato sostituito dal magistrale. Ah, ok, perfetto, il nuovo magistrale. E sei al secondo anno, giusto Berenice? Sì. Senti, ma perché Berenice? Da dove arriva? Te l'hanno detto i tuoi? Niente, praticamente hanno sentito una canzone che usava il diminutivo Nice. Sì. Quindi hanno cercato nel dizionario dei nomi e è uscito Berenice e sono stati innamorati di quel nome. Quindi il tuo diminutivo è Nice? Sì. Ma da parte loro o da parte dei tuoi amici anche? No, da parte dei miei amici è Bere. È Bere, certo. Infatti, invece i tuoi amano più la parte filosofica del tuo nome. Bella. Che riguarda il tuo nome, che riguarda appunto la parte finale. Berenice, abbiamo più saputo niente di questo ex fidanzato? Perché un po' a tutti ci sta sulle palle, devo dire adesso, Sì, ma è scomparso dalla faccia della terra. Ma nel senso che non è di Aprilia, non abita nella tua città? Sì, è di Aprilia, anzi è neanche nella mia scuola, ma non si fa più vedere, non lo vedo più. Ma manca l'intervallo? Sì, vabbè, lui nell'intervallo sta sempre in classe, quindi... Vabbè, ma che tipo è? Sta in classe perché è secchione o sta in classe perché non ti vuole vedere? No, sta in classe perché è secchione, perché se non c'ero io non usciva da quella classe. Ok. Berenice, scusami, noi ci ha raccontato il tuo papà che di fatto è stato lui a convincerti a mandarci questa storia. Non questa storia, lui mi ha convinto più che altro a scrivere una storia perché visto che dice che scrivo bene mi aveva incoraggiato a scrivere qualche storia. Sì. E io ho sentito di Magica che avevi dato alla fine di una puntata e mi è venuta in mente questa storia. Ok, che insomma che è una storia vera chiaramente. Sì, cioè... L'incubo è tutto vero. Insomma, ci vuole del coraggio, no? Però per scrivere una storia come questa e sentirla raccontare in radio. Cioè, come ti senti adesso? Ti senti un po' in imbarazzo? Ti sembra una cosa invece normale? Prima, quando mi è arrivata l'email di Miriam che era stata accettata, mi sono sentita un po' in imbarazzo perché l'ho scritta pensando che non me la sceglievate, perché io comunque ho 15 anni, non ho esperienza nello scrivere, magari sono persone che scrivono meglio di me. Però dopo mi sono convinta che comunque non è una cosa così scandalosa, perché ormai perdere la virginità a quest'età non è, succede tutti i giorni. E infatti, quindi... guarda, proprio di questo volevo parlare con te, visto che non mi capita spesso di parlare con dei quindicenni. È una cosa abbastanza normale avere dei rapporti sessuali in età come questa? Cioè, nel senso, i tuoi compagni, le tue compagne, come la vivete questa cosa in quel modo lì? Sì, è normale perché ormai come un tempo si torna indietro e quindi si perde la virginità più facilmente a quest'età. Cioè, ma vuoi dirmi 15 anni, conosci qualcuno che anche l'ha persa prima? 14? Sì, conosco pure chi l'ha persa prima. non ti chiedo il nome, no, non mi interessa. Ovvio. Ad esempio, questa cosa, i tuoi genitori, quando l'hanno saputo, ti hanno fatto delle storie, tuo papà ti ha detto qualcosa, oppure no, semplicemente... Mio padre è stato molto gentile, devo dire, avevo un po' paura quando me l'ha chiesto. E invece mio padre, che è un po' esagerato nella... proprio presa dal nervoso, proprio era ha cominciato a urlare, quindi è mia madre che ha avuto... Che l'ha vissuta un po' peggio. Tu pensi, sì, che, so che è presto per chiedere una roba del genere, però pensi che vorresti avere una famiglia quando sarai grande? Ti piacerebbe avere dei figli, un marito? Sì, pure cioè, mi piace tantissimo, mi piacciono tantissimo, ma a me quindi i figli sono... un punto, un obiettivo. Cosa vuoi fare da grande, Berenice? Io da grande vorrei fare o la professoressa di lettere oppure la giornalista. Ah, ok. Quindi, insomma, hai le idee abbastanza chiare. Ambito umanitario, più o meno. Sì, sì. Il livello scientifico non mi ha mai tirato molto. Ok. Tra l'altro, sì, guarda, devo dire che il tuo babbo è in ottima compagnia, perché è arrivato un messaggio in questo momento al 349-238-6666 di Mario, che dice: io il test l'ho fatto ieri con mia figlia che è 17enne. Quindi, insomma, tuo papà probabilmente non si deve sentire una mosca bianca, isolato. Esatto. Quindi, insomma, poi pensi di fare l'università, giusto, Berenice? E poi qualcosa che ha a che fare con raccontare le cose, no? Sì, perché comunque vorrei fare l'università, ovviamente poi una specializzazione, anche per essere più sicura, perché qui in Italia, se rimango qui in Italia, sempre più carte hai, più meglio è. Certo. E poi sì, perché sono proprio affascinata dalle lettere, mi piacciono tantissimo la poesia, l'italiano, okay. La nazione. Che scrittore ti piace? Qual è l'ultimo libro che hai letto, Berenice? L'ultimo libro che ho letto è Colpa delle stelle, per mio piacere, perché mia madre me l'aveva regalato da un viaggio a Milano, però per scuola Anna Frank, siamo ad Anna Frank, ok. Berenice, l'ultima cosa, poi ti saluto, sei fidanzata adesso? No, ma c'è qualcuno che ti piace? No, per ora studiamo. Comunque, per il futuro, Berenice, per non sapere né leggere né scrivere, come diceva mia nonna, usiamo il preservativo e andiamo lisci, giusto? Sì, okay. Ma infatti... Così, cioè proprio buttato lì alla fine, così siamo... No, non che non voglia più i tuoi racconti, anzi, mandamene quanti ne vuoi, però così, per stare tutti più tranquilli, mica solo per quello, anche per altri motivi, ok? Berenice, grazie mille. Grazie mille, in bocca al lupo, saluta tuo papà anche tua mamma, ma tuo papà che ti ha fatto scrivere la storia. Ciao, grazie. Sì, grazie a te. Ciao, ciao, ciao. Quello che sto per raccontare è successo più o meno 10 anni fa. Ero a Napoli a lavorare, avevo circa 30 anni. A quell'epoca avevo conosciuto Peppe. Peppe era ed è tuttora esattamente il prototipo dell'attore napoletano. Sapeva cantare molto bene, sapeva suonare la chitarra, il pianoforte, beh, più o meno tutto il resto. Sapeva tutte le canzoni popolari, parlava alla perfezione in dialetto e aveva la faccia di chi non prende mai niente sul serio. Tutte le sere lui accompagnava a casa tutti in macchina, probabilmente perché si sentiva responsabile per la sua città, come se fossimo ospiti suoi. Una sorta di alter ego di Peppe in compagnia si chiamava Giovanni. Era ed è tuttora un ricciolone di Sessa Urunca, grandissimo suonatore di tammorra. Se si usciva con loro due assieme, non si andava mai a letto prima dell'alba, e quando poi si era in giro per lavoro, ovunque fossimo, trasformavamo qualsiasi piazza in una specie di festa popolare meridionale. Dopo lo spettacolo e dopo la cena, quando oramai era già molto tardi, sceglievano un angolo, tipo un portico, una piazzetta che secondo loro aveva l'acustica giusta, e attaccavano a cantare canzoni popolari e a suonare la tammorra. A noi poi si aggiungevano sempre dei turisti o degli spettatori stranieri, ragazzi, ragazze, curiosi in generale. La serata finiva quando arrivava la secchiata d'acqua dall'alto. A Napoli invece le serate finivano prima, anche perché bisognava fare le prove durante il giorno, quindi non si poteva fare troppo tardi. Una sera però, dopo lo spettacolo, Giovanni si avvicina con la sua faccia da furbo, mi chiama e mi indica una ragazza. Mi dice che ha visto lo spettacolo, che è un'amica di Peppe. È un po' più grande e che le piaccio. Ha qualche anno più di me e anche se non mi fido per niente di lui, devo dargli ragione che guardava verso di noi come se ci conoscesse, come se effettivamente le potesse piacere. Giovanni allora insiste e mi carica come una molla e ovviamente io mi lascio caricare. Quindi le vado incontro e mi metto a chiacchierare con lei. Ha un viso familiare, molto simpatico, anche la voce quasi mi è familiare. E faccio la mossa di invitarla a cena con tutti gli altri insieme a noi. Lei chiede se viene anche Peppe e quando le dico di sì... Certamente, ovviamente, verrà anche lui. Lei accetta. La saluto, vado a cercare Peppe in camerino. Quando lo trovo gli spiego tutto. Dalla mia descrizione lui non ha capito chi sia questa tizia, ma mi garantisce il suo aiuto e se ne va, dicendomi che lo stanno aspettando. Usciamo, lo ritrovo fuori dal teatro che parla proprio con lei, con questa tizia. Allora mi avvicino anch'io. Mentre Peppe mi chiede dov'è quella famosa amica sua che mi aveva conosciuto, e io gli rispondo: ma sei scemo? mi accorgo con una frazione di secondo in ritardo che era meglio starmene zitto. Dunque, sono le 11 di un sabato sera, a Napoli. Per strada c'è un sacco di gente che parla, ma io sento solo la mia voce. Guardo Peppe che realizza poco per volta quello che sta succedendo. E guardo anche Giovanni, che ovviamente esplode di soddisfazione perché lo scherzo è riuscito. Guardo Peppe. Ha 8 anni meno di me. Guardo la ragazza che potrebbe avere 8 anni più di me. E mi ricordo che Peppe mi aveva detto che sua mamma aveva solo 16 anni quando lui è nato. Mentre sento ovviamente la sua voce che pronuncia: Amatè, ma questa è mia mamma. E così, grazie alla storia di Berenice, ho capito un po' di cose. Ho capito che, primo, diventare mamma non è per forza e sempre una cosa meravigliosa. Secondo, i test di gravidanza, anche quelli comprati al supermercato, sono pur sempre affidabili. Terzo, le ragazze e adolescenti si confidano coi propri padri. Quarto, per evitare brutte figure bisogna conoscere sempre le famiglie degli amici. Quinto, la felicità la si può raggiungere anche seduti su un water. The two-headed lady said I couldn't land my ship. I said it would only take a minute. Well, she said. Purtroppo dobbiamo tagliare questo pezzo bellissimo che trovate comunque sul nostro profilo, alla nostra pagina. Arrivano giustamente i messaggi, ho usato il termine sbagliato, non era ambito umanitario ma era ambito umanistico, e chiedo scusa a tutti quelli estremamente arrabbiati che mi hanno scritto. Qualcuno mi scrive da dove arrivo, ammazza, in tanti mi hanno scritto per la storia dell'umanitario. Berenice, principessa etiope che perse la chioma, diventata una costellazione che si chiama Chioma di Berenice. Grazie a Fabio Cantadori, grazie a Miriam Lucchetti, grazie a Tiziano Bonini, grazie soprattutto a lei, grazie a Berenice. La storia di oggi era la sua, e anche lei è un punto rosso su una mappa. Sono Mauro, vivo a Bordighera. La storia di domani è la mia e parla del più bel giorno della mia vita. Questa è la mia storia e io sono qui.